Buonasera! Buonasera! Scusi un attimo lì, vengo su. Eia. Leggi? Eia. Ma sei uscito oggi? Sono uscito ieri, Mi sono rimasti dei coperchi, ma non sono quelli delle DM1000. Ah, beh, sempre sotto il coperchio delle DM1000, quello che è il coperchio. Quello di davanti, quello dove c'è la casa. Non ci capisco nulla. Non si capisce nulla, lei sta ripetendo 50 volte. Ripete un paio di volte. Guarda, c'è l'eco. E adesso c'è l'eco, però non è fastidioso, dai. Non ripete 150.000 volte. Adesso ho sotto il tutto. Va meglio? Così di uso lì, lascialo così. Che microfono è? Microfono normale, di questo palazzino suo. Ok. Trovare cazzo i pizzi, dovuto andare a casa in giro per i cosi, per i laboratori ieri. E l'hai trovati, poi te l'ha trovato tu? No, me l'ha trovato un amico, il CDA, e lo montano dentro di stereo questo, capito? L'altro, il capaia, bisogna che, adesso vediamo un po'. Quello sarà quello di Antonio Bombolo, è un casino. Capito? Ci vuole il Capaia 7217 e non ce l'ho. 7205AP non va bene. Se ci metto quello manca l'audio in trasmissione perché sono diversi. Com'è K217? Eia, Capaia 7217AP. Adesso guardo se ce l'ho io, perché l'avevo acquistato alcuni e non me lo ricordo se ce l'ho quello lì. Se ce l'hai me lo dici e te lo pago, non c'è problema, capito? Almeno lo riparo e è a posto. Peggio della Cosca siamo diventati. Ho telefonato anche Alghero, al GPC di Alghero. E ha risposto picche, no, non ci abbiamo più niente, no, no, no, di baracchini, pezzi di baracchini, niente, dice. Se li ordini da internet, gli ho detto, cazzo, gli ho detto, e dove vado a ordinare da internet, c'è un casino. Ma tu metti quello che stai cercando su Google e ti fa avere tutti i posti dove lo vedo, metti venditori e metti il numero del pezzo che stai cercando e te lo fanno avere. Ma devi pigliare un bel po' però. Io non ce ne ho 50 euro da spendere in finale, dove me li metto per intenzionare fuori. Hai capito? Non sono un laboratorio. Devi pigliare almeno 10 pezzi, se no manco te li mandano. Capito? C'hanno anche ragione. Se ti mandano 10 pezzi, spendi 10 euro di cosa di spedizione e ci rientra. Così c'era avuto qualcuno, qualche laboratorio magari che faceva riparazioni e c'ha i pezzi buttati da qualche parte e se li vende così. Ma io se ce l'ho non te lo faccio pagare, se lo regalo non c'è problema, non te lo faccio pagare, ci mancherebbe altro. Sì, vabbè, intanto per Antonio io lo sto facendo gratis il lavoro. Non è barattino mio, lo sto facendo gratis, l'ho pensato dall'apparecchio che avevo, sono riuscito a mettere anche dei filari di trasmissione nuovi che li ho trovati, però l'integrato audio, quello è totalmente diverso. Ah, l'integrato audio è quello lì. E l'integrato radio, posso cambiare il condensatore, l'integrato, poi l'integrato audio perché è esploso, capito? E il finale di trasmissione, il 2078, meno male il 2314 non c'avevo niente. E la resistenza li ho cambiato, la resistenza che c'è lì di, proprio di fronte alla finale. Giallo, viola e oro e il coso. 4,7 ohm. Ma come mai è scoppiata? Cosa gli ha fatto? Come mai è saltato? Mi ha detto che stava pompando e gli è tornato indietro la via per questa. Ma allora c'è una stazionale? Non lo so, non lo so dire, dipende da quello. Non lo faccio manco io. Poi se torna dietro Buviccio stazionale e ti brucia tutto. Casino, guarda. Con 747 siamo a pompa. Ne ho visto baracchini con lineare bruciarsi il trasformatore, quello che c'è dentro. Quello rosso, quello celeste, quello che c'ha 5 gambette grandi. Proprio attaccato all'integrato audio dove c'è l'LC, capito? L'ho visto di cose, ha trovato di sciultimi, devo dire sciolto da lineare. E io la dico, a me l'ha capitato con il lineare di coso di Lucca, mancava una vite, non me ne sono accorto, vado a schiacciare portano, se ne ha fatto di sordo, ho bruciato l'apparecchio, ho dovuto ripararmi l'apparecchio mio, dopo che ho sistemato il lineare a lui. Cioè, hai contato la cosa e faccio andare là. Allora, ho sbacciato il baracchino mio, sono sbacciato. Ha bruciato il, mi sembra l'integrato, non so mi ricordo, ha fatto un ritorno di grande frequenza, boh, crepato, ha detto inteso, pa! E uscire il fumo, io ho detto, cazzo che ha! E mi sembra che era col 2009 proprio, con quello di Giovanna, quello nero. Allora, invece c'erano, ho preso, l'ho cambiato subito. Aspetta che vado a dare uno sguardo, ripetimi la sigla. KIA72 0, non 0, 7217 AP. No, non ce l'ho, ho controllato se in mezzo a questi che ho non ce n'è. RV10R10 per... KIA 72017. Il proprio integrato auto, quello che ha pettine, attaccato allo chassis. Degli apparecchi tipo di Midland lo montano. Ma Cotonino ne ha, in mezzo a quella modesta che c'aveva che... Adesso qualche giorno di schiera avrete in tutta quella modesta che c'è interna, se c'è baracchini da buttare. Gli richiedo e faccio prima mica. Non ne ho stacco da uno di questi da qualche baracchino che ci ha buttato. Lunedì ci passo, glielo chiedo, ma non è che c'è qualche baracchino che non è mai venuto il coso, il padrone tirarselo, che non se ne fa niente per pizzi. Se me lo dai, lo utilizzo per ripararmi, per fare riparazioni, dato che non c'è i componenti. Ci stavo passeggiando sopra l'altro giorno, quando sono andato dentro mi sono messo male in testa, dico, dove diavolo è questo? Ciao, Tone, e sento tra, in mezzo all'altro mi ha buttato dietro al bancone. E chi mi slampa che lì? Ma magari ce li ha e non li trova, perché io te vado, apro un di cassetti, non si ricorda più dove li mette, capito? Apri tutti i cassetti per cercare la roba, per cercare un PL, apri tutti i cassetti. Non si capisce nulla, quando sono entrato c'erano tutte le scatole aperte, e tutta la roba sopra il bancone, prendeva le scatole prima e ce le metteva sopra il bancone, e poi io non si capisce come faccia a lavorare così in queste condizioni. Quindi bisogna che lui si prenda un ragazzo per almeno un mese, penso io, se gli arrivassi un mese. chiama e beh, buttarci tutto nel tavolo. Perché non è possibile che tenere le cose così? Lui manco il magazzino te la guapo così. La roba era tutta ben assentata, bella busta, negli scaffali, tutta ben messa, ordinata. Non ce n'era casino così. Lui ha licenziato quel ragazzo, malgrado fosse antipatico, ma almeno gli dava una mano. Fai quello, sì. Ma ci vediamo, sono d'accordo anche io con te. Non lo so io. Secondo me sta rincoglionendo dei tutto, sta rincoglionendo. Lo trovo sempre fuori, mille, da solo. Ciao Tony, fumando. Non sta tenendo quasi più nessuno lì. Figurati. E va bene di sala, perché non ce la fa più secondo me, non ce la fa più proprio mentalmente. Perché prima non era così, sì, qualche cartone lo trovavi, ma non a quei livelli lì là, a camminarci sopra la roba, a cazzo, a parte chi può trappare da un momento all'altro, cadi e ti fai male. Purtroppo la vita è così. Lui si è lasciato andare da quando è morta la moglie. Sì, sì, esatto, si è lasciato andare da quando è morta la moglie, quindi non si è più ripreso. Aveva detto un giorno cosa, Marco di sposarlo, ancora di passare Giovanni, mi ha detto dice, sono entrato il 5 di agosto, mi sono messo le mani in testa, dice quando qualche giorno ci vado, glielo chiedo se ne vuole andare in pensione, ce lo pigliamo noi, mi ha detto, trasferiamo tutto, quello che c'ha, dove siamo noi, abbiamo il locale molto, molto grande e mettiamo di scappare giù, ma e così almeno ci abbiamo tutto, facciamo GPC e cose e lavoriamo bene. Bisogna avere fondi per fare queste cose, se no sarebbe mille luci. Deve avere dei fondi o chiedere dei prestiti eccetera. Per cominciare a me. E la mia soldi cosa? Marzia, a voglia. Il marito quando è andato via dalla Sicilia aveva un bel po' di soldi, capito? E quindi ha investito lì in negozio, allora aveva con la signora Giovanna. Quindi ha investito lì, capito? E c'era soldi, non è che non ne abbia. A Marzia, quella rifusa, si dice. Il marito lavora lì, Alessandro, sempre pratica il fratello di Daniele, quello che installa coso, cancelli elettrici, capito? Ho capito. Vabbè. Ma il marito io non ci vado molto d'accordo, quando lo compro di solito mi rivolgo a lì o a Antonello, perché il marito non ti fa nessuno sconto, niente, proprio, cioè, ce la fa pagare a pieno la roba. Ah, vabbè, Antonello non c'è più, che lo sai che Antonello è ormai è in pensione, non trovi me. Qualche volta l'amico va a prendersi un caffè, una mazza caffè con i cani, e dopo ti passa giù i cani verso le 7:30 alle 8 e passa lì, si beve un vinello, si beve. Ora va in pensione, Antonello se ne fotte le palle. Immaginati che lui è, io l'avevo conosciuto, cioè, aveva 18 anni quando è entrato in quel negozio. E già non va più lui dei padroni, infatti lo compro. E Antonello ha la sua età, è giusto che sia andato in pensione, là. Quello sì. Quello sì. Costruiva anche le antenne, costruiva. Immaginati. Le antenne, no, non le staccato. Quello che vendevano le costruiva lui, Giumi. C'era il laboratorio sotto, me l'ha fatto vedere Marzia. Costruiva le antenne del primo, secondo canale, quelle di una volta. Adesso non sta più facendo niente. Giù è tutto buttato lì. Lui era accaduto anche mettendo un'antenna, se l'ha fatto male, mi ricordo, Antonello. E lì se l'ha fatto 6 mesi, se l'ha fatto di malattia. sia. Ma me che è caduto male davvero, penso, bene, male è caduto. E la vedda. E vabbè. Anche lui la sua voluta pensione se l'ha presa. Ah, quello sì. Già sta bene, già sta bene, auguria. Si è preso una bella pensione, ormai che da 18 anni lui si è andato via, si è andato con la massima, quindi io penso che 1.300-1.400 se li prende, capito? Perché gli ha versato tutti i contributi. Massima. Magari 1.400, ma 1.300, 1.200-1.300. Meglio di niente, già è me. Certo. Certo che sì. Vabbè, che adesso con quei soldi lì devi stare attento anche come li spendi, perché la vita è cara. È cara. Non si può entrare al supermercato a comprare. Ogni volta gli lascio 60 euro, 70 euro di spesa. Ogni volta. E io vado da cosa? Da... Sì, è vero, ma fare la spesa, si spende di meno e la roba è migliore, direi lo stile, capito? Si spende un poco, me ne sono accorto da un sacco di tempo. Quando vado in questo di qui, di via Carlo Felice, fai carità. Ogni tanto fanno il giro di boa, fanno, ogni tanto ne assumono qualcuno, l'altro sparisce, fanno come faceva a Cosa, un anno, poi ce lo mandano, capito, e assumono un altro. Così fanno i soldi. Invece da via Verona ci sono sempre le stesse persone che conosco da almeno 15 anni, capito? E quindi ci puoi scherzare, eccetera, eccetera. Aspetta un secondo, che sto regolando una cosa. Ok, e vabbè. Hai volato tutto a posto? Stavo controllando le stazionali a vedere se ne avevo, non ne ho. C'ho un E1 adesso, da quando mi sono sistemato la mantova, poi a fianco ci ho messo l'antenna per Giovanna, gli ho già detto adesso me, appena gli ho detto, ho già telefonato a capo condomino, gli ho detto, per dargli la buona notizia, figliami, mi ha risposto, dice, guarda, sono a funerale adesso, ho detto, l'importante è che non sia il mio, gli ho detto, poi sei arrivato, non me ne frega niente, gli ho detto, già ci vediamo. C'è la faccia. No, voglio passargli il cavo, anche lì ha diritto di usare il baracchino, capito? Tanto è a 3 metri di distanza l'antenna sua dalla mantova. E quindi da me problemi non me ne dà. A me lo parla anche lì. Quando ne ha voglia, sono in salone, almeno 10 minuti, 20 minuti, quello che si distrae. Ma l'antenna adesso quale sta usando? Quella Turbo 2001 sempre? Sì, lì c'è la... gli ho fatto un dipolo, gli ho fatto, ma c'era dalla parte di via Vada Basso e non è cercato, capito? Da lì. Perché è tutto quanto c'è metà al mazzo, quindi il Turbo 2001 ce l'ha in cucina nel terrazzino dalla parte di Sassari. Quello che è dalla parte via Calofrice, capito? Si vede tutto Sassari, adesso vedo di passargli il capo di lì e ce lo metto al limite in cucina, al barattino, e l'antenna, tanto devono sistemargli il terrazzino, la piazzerò lì con la staffa, capito? E la userà così. Se ne ha voglia di... vabbè, c'è quella di sopra, perché devo mettere... devo provarmi il via. Anche perché passare il cavo, cazzo, per togliere il cavo vecchio TV adesso e passarci il cavo nuovo non è che ti puoi fidare di molto, no? C'è quasi 20 anni quel cavo dentro, quindi ce lo mettere, devo comprare un po', non subito, no? Un bel po' di mettersi tipo svelto, infilarcelo tutto dentro. in modo da poter lasciarlo lì in modo che scenda piano fino ad arrivare a cosa, in modo che scivoli. Perché se no l'avresti messa sul tetto direttamente e avresti tagliato la testa al toro, capito? Ma passare il cavo così esterno non me ne fanno passare, capito? Già te lo ricordi che mi hanno fatto un sacco di casino, lui c'era il primo capocondomino, perché avevo passato il cavo esterno. E quindi gli ero passato direttamente interno dal cavo satellitare che parte dal tetto, glielo faccio entrare direttamente da lì e da lì direttamente in casa sua, qui laggiù, certo è diretto, capito? Io l'ho legato a fluviale, l'ho legato dietro, non si vede nulla, l'ho messo qui nello stesso colore del palazzo, il grigio come il palazzo, l'ho preso apposta per quello, di quel colore lì. E praticamente l'ho legato a fluviale e niente, non si vede nulla, con delle fascette. No, qua già non sai come è fatto il palazzo, mi è fatto la cacchiera, capito? Quindi se fosse stato dritto come ce l'hai tu, nel pluviale ce l'avevi infilato anche dentro, come avevo fatto con Mario Manse, capito? Passava lì, avevo fatto il foro all'uscita del terrazzino, da lì se l'è messa direttamente in cucina. Pure la cucina l'avrebbe portato lasciato lì al limite, tanto non è che dia fastidio in cucina, anzi la maggior parte dell'ora si passa in cucina a cucinare la pranzo a cena, quindi a un certo punto si siede lì e forse lo mette in camera a letto con una di quelle cose adesive, canalette adesive, quelle di color marroncino che vendono. Ma io ho messo dentro pluviale, non sono d'accordo, perché prende umidità il cavo, si marcisce tutto. Come ti va la leva? Sì, vabbè, ma anche a me me ne è scesa l'acqua, mi. Vabbè, non è dentro pluviale, però a me ha seguito in pratica il cavo dal PL, dalla calza, ed è arrivata fino alla mansarda. Mi trovavo questa qua intera, non riuscivo a capire da dove diavolo era. Controllo la calza, capito? Dalla tela VHF direttamente segui l'antenna, la piena d'acqua e quindi segui la calza dal PL stesso. E me la sono trovata tutta l'acqua. Allora l'ho preso e l'ho pulita bene l'antenna, l'ho sistemata bene, adesso è perfetta. Vabbè, ci ho messo quella di Giovanna, già vabbè, senza PL, momentaneamente deve essere una isolante, vulcanizzante, in modo per fare attacca, per salire sopra. Tanto la bocca che già c'è la direttiva già è agganciata sotto la mano. E me l'ha fatta anche a me, ne davano anche un V5, la stessa cosa. E si è scesa l'acqua dal PL, sotto il PL che c'era tutta ammazza, ho detto ma che cazzo è successo? Era sempre un E1 di stazionari, un E2 al massimo. E c'era praticamente il PL tutto pieno d'acqua. E ho dovuto cambiare tutto il cavo, tutta l'antenna, l'ho messa a gabbigio se voglio arrivare a raccontare la Rosella. E è così, infatti, perché sarà qua così. Anche la legge 213 me l'ha fatta a me, immaginati. Ma poi già è sparito, visto che il cavo adesso è a posto, è asciutto. Si è asciugato col calore, quindi già sta funzionando bene. Prima quando attaccavo, come si chiama, il cable, cazzo, più di 30-40 watt non tirava fuori. Dicevo, va bene, però, è come le quattro stazioni, è stato strano. Tutto pieno di acqua, tanto vabbè, prima già l'avevo sciolta, di pochi a sciogliere il cavetto della mantova tubo che parte dalla PL e sale la bobina. Può succedere. succedere, magari trova, eppure c'era una tutta vulcanizzata, la mia tutta faccia bene. L'unica cosa che c'era è che praticamente gli stavo facendo una specie di U dal PL dell'antenna per la discesa del cavo, no? Stavo facendo una specie di U e mi hanno detto di non farla che cambiava l'impedenza. E invece molta gente mi ha detto che facendo così acqua non se ne entra. Sì, perché non segue il cavo, quindi infatti fai solo una U, fanno una specie di zero in pratica, hai capito? E quindi l'acqua non segue il cavo ma scende direttamente nel, come si chiama, in terra, sopra il tetto. E invece ho dovuto cambiare tutto il cavo, se marci tutto, come scendeva l'acqua, ho dovuto cambiare, vabbè adesso l'ho messo nuovo di nuovo. Quando ho cambiato l'antenna ho cambiato tutto, tubo, antenna, cavo, solo le stampe le ho lasciate, quelle che c'erano, le ho messe i bulloni nuovi perché erano un po' pratichi e non messi l'acciaio. Hai fatto bene. No, quando sono stati i tecnici mi è venuto a ridere a me. Sono venuti con la parabola e c'ero io fuori. E ti ho detto una mano, ho detto no, non c'è bisogno, mi ha detto, non c'è bisogno. Tutto un tratto dovevo girare, destra, sinistra, allora genere, eh? Non riuscivo a centrare il segnale, infatti gli spariva. Poi l'ho visto salire sopra, tutto di sopra e stava già cominciando a svollare la mandorla. Hai capito? Dice, togliamo questa antenna che dà fastidio la parabola e l'antenna la mettiamo in terra. Quando ho visto così, ho detto, ho 5 minuti a ripensarmi di nuovo la mandorla. Ho detto, se no ti cerchiamo i carabinieri. Ma cosa cazzo ti hai messo in testa, gli ho detto. Tu non sei stato il cervello, gli ho detto. Tu non sei un tecnico, gli ho detto. Se secondo me manco il corso hai fatto. Quindi ho detto, non toccare più niente, perché se vado toccando l'antenna, ti sto chiamando i carabinieri, ti sto a fare i tuoi. A me di quello ho detto del condominio, che non vede la parabola, non mi ha detto niente a me. Gli ho detto, quindi, cerca di fare la brava, ho detto con me, ma che sta con su, ho detto con qualche pezzo di ferro e vi faccio fuggire tutti e due, ho detto, la tappata. Ma cioè senza chiedere un permesso, una cosa, la ringavi la sera così, se mai spostava la parabola, scusa, se proprio gli davo fastidio spostava la parabola la metteva dall'altra parte, che problema c'è? Sì, infatti gli ho fatto fare i buchi più giù, se fai i buchi più giù vai, cioè non mi rompere le palle. Poi tutto stato lo vedo mettendo la carta stagnola nell'illuminatore, gli ho detto, ma stai facendo? E mi ha fatto anticipare, mi ha detto di metterci la carta stagnola sopra l'illuminatore della parabola. Ho detto, cerca di toglierla veloce, gli ho detto, ma che per cosa l'hai presa la parabola? Gli ho detto, per un parafulmine, gli ho detto. E gente che si improvvisa, tecnico, da voi non è nulla. E infatti, io non ho mai visto fare un lavoro del genere, in vita mia, metterci la carta stagnola dell'illuminatore per schermare l'illuminatore per offendere i segnali della parabola, della mandorla. Ma gli ho detto, cerca di togliere subito tutto, detto, prima che detto, mi scenda il fulmine dentro a casa, e allora sì che hai detto che devi vendere l'appartamento tuo, gli ho detto. Tu stai scherzando con fuoco, gli ho detto. Non si usa a fare questi lavori così. Che passagnola, ma dove si è mai vista una cosa del genere? Per carità, ce n'è lì gente che mai... Cioè, se uno non sa fare il lavoro, perché si mette a farlo? Per dare problemi agli altri? Prima erano in due, figurati, poi è venuto il principale, ha chiamato un buon giorno da lei, il principale di questi due, gli ho detto. Meraviglio di lei, gli ho detto. Dove si è mai visto fare lavori del genere, gli ho detto. Poi ho detto, senti, guardate, ho detto, le come si chiama, il tetto, in che condizioni me l'avete fracassato, gli ho detto. E sembrava le zappalegne questi due, gli ho detto. E tu guardi, ci metto il silicone, faccio la fotografia e la spedisco al capocondomino, perché voglio le tegole nuove, invece non me l'ha cambiata. E tu, se mi entra l'acqua, gli ho detto dove vai, gli ho detto quello che mi succede. Ma allora mi sono comprato un coso di silicone bianco, ce l'ho messo, e mi hanno staccato quattro tegole, con le scarpe grosse. Perché poi le tegole, se c'è umidità, si spaccano subito. E quello sì, delle volte salivano che aveva appena finito di piovere, due volte. Una volta gli ho detto, ormai sta stando sopra adesso, gli ho detto, sta per piovere. No, non piove, ma dico. E tornato la sale, gli ho detto, poi ho detto, quando fa una cosa, quando sta piovendo, ho detto, siccome la scala è la mia, gli ho detto, ti butti, gli ho detto. Non si sa quando piove su questa specie se a tegole piace. Vabbè, noi abbiamo piazzato la mia prima Matova 5 sul tetto, che c'era almeno a 120 all'ora. Cazzo, siamo già di rubare, non di riguardo. Sì, vabbè, anche io sono salito sopra il tetto per installare l'antenna, addirittura sono sceso che era buio, ma io conosco il tetto mio, capito? C'era il cane che stava pagliando, insomma. Io conosco il mio tetto, quindi a un certo punto sono partito. Ma c'è tanta gente che non conoscete, che è un casino. Io infatti quando mi chiedono di fare intanto l'antenna, no, non ne faccio più, ho 60 anni, mi dispiace, ma mi voglio godere la vita ancora. Non devo cadere dal tetto, ho detto che non mi paga nessuno, ho detto 50 euro cagati. Sì, che al terrazzo già va bene, Ari. Il problema è quando è a tegole che spiovente. Avanti. Senti allora. Buonasera, vedi con il controllo per vedere come sto uscendo qua. Sì, non c'era problema, devo fare anche... Io ti sento malissimo. Ciao Uranio, ben sentito. Ciao Uranio, io ti sento male, cioè, non so se sei attaccato. Il Santiago non è il tuo, perché lui arriva di solito 7-8 e oggi è 4. È la metà. È la metà. E anche la radio non è chiara. È più chiaro se salito anche di Santiago, però c'è molto QSB, sicuramente anche quello. Propagazione della CNN, a voi. abbastanza di gente che qua. Boh, io scuole della propagazione non ne ho di qua, la verità. Ho solo QRM Santiago 3, 4 e basta. No, io quando ho parlato l'orario lo sentivo QRM. Però qui non ne ho. Ne ho pochissimo qua. Comunque Sanchena va benissimo, non ne prendevo su QRM. No, io... Ciao Gianni. Avanti, beh, come va? Bene, bene, e tu? Insomma, così. Con chi stai parlando? Sto parlando con Pomponio. Bonello, senti, ma cosa intendi, Rocca? Io già lo sento, dici. Sto usando un apparecchio... Watt, mi pare che non lo so, la verità si dica, non lo conosco, non lo voglio toccare, c'è un sacco di funzioni, per carità, se lo tocco esco di testa con questo. Ma ora non sa parlare. Aspetta che attacco il keyboard fra due minuti, attacco il keyboard così mi senti meglio. Ah, adesso ti sei aumentato, hai visto? E beh Gianni, come te la passi? Allora vai un bel fuoco, che cosa stai usando? Il Galaxy sto usando, con l'MVP4. Idem come sopra. E beh, l'hai messo a posto poi. No, devo portare, non ho tempo di andarci, capito? Non ho tempo. Funziona bene, solo che vorrei allineare, capito? Allineare bene, perché era tanti anni fermo, era un casino. E lì ce lo fa bene, ce lo fa tranquillo, poi il Galassi riconosce bene lui. Infatti un giorno gli porto questo, quando lo chiamo, gli porto questo e il presidente gli porto, così me li allinea tutti e due e me li fa come si deve, almeno per non avere problemi né in banda né niente, perché in banda c'ho un po' di problemini con questo. Sempre mettere d'accordo, Gio Maria ci doveva andare, però dice che non sarà sette di viaggiare. C'è un apparecchio che non le sta andando bene, l'ha preso nuovo e non le sta andando bene. E glielo voleva portare. Voi mettete d'accordo, un giorno andate insieme. Andrebbe anche bene, andrebbe. Solo che questo qui io non c'ho tempo di andarci. Perché infatti non ho chiamato neanche per quel motivo lì, non ho chiamato. Però più avanti, quando comincia un po' l'estate, dai, lo chiamo e mi faccio una scappatina. E dopo rifare poco tempo, perché ci mette poco. Poi 3 giorni me la dà. Vabbè, quello che ci mette non è importante, l'importante è farli bene. Li fa bene, sì, è bravo. Lui addirittura rimodifica anche gli apparecchi. Buono. No, a me mi interessa solo mettermi in linea, perché vedi, come senti la radio va bene, almeno in AM, esce fruttissimo, anche la tua non scherza, Infatti l'ho fatto anch'io, ce ne bevi più 4 anch'io. Va bene, questo apparato va di lusso, è uno dei pochi che la radio è chiara, forte. Infatti, era tanto che la stavo cercando, infatti c'avevo un tubo, però il tubo è stato mandato da lui stesso, mi ha detto che non c'era niente da fare, che non valeva la pena aggiustarlo, e allora ce l'ho buttato via, quello lì. E adesso se gli porto questo gli faccio mettere anche lì a letto, piccolino dentro, 747. E la truva di va. Lascialo fuori, tanto. Che passi tutti da 747 piccolo. Non lo so qual è il problema per metterlo dentro. Sai cos'è? Che almeno ce l'hai dentro, collegato, va diretto. Ti va, e al posto di uscire per dire con 10 watt, 12 watt, e ti esce direttamente, puoi fare uscire direttamente il coibatti del lineare e usare solo il lineare come potenza. puoi uscire come il turbo, là. Esatto, più o meno è così, il turbo è così, c'è un lineamento dentro. Sì. Però non ha fatto molta... il turbo non ha fatto molta, come si dice, ma non ho comprato in tanti, dai, non ha fatto scalpore più di tanto. Invece normale, in garage normale me l'avevo di niente, perché andava bene. Sì, quello sì. No, io ce l'avevo prima, l'avevo comprato nuovo, da quello che è in Via l'Italia, che era in Via l'Italia prima. L'avevo comprato nuovo, il Galaxy Turbo, funzionava abbastanza bene. Poi, quando ho smesso di modulare, mi ho venduto tutto e via. Mi avevo venduto tutto. L'errore è stato darlo. E quello che c'avevi, il turbo che non funzionava, era il tuo oppure l'avevi comprato? No, me l'aveva dato un amico, così me l'aveva dato, ma dice guarda, se riesci a aggiustartelo, riceveva solo e basta, però non usciva. Se riesci a aggiustartelo, solo che ci hanno messo i cacciavite dentro e hanno spaccato tutti i trigger. Così no, così fazzilitato e basta, io non lo so, se non lo sono a toccare perché lo toccano. Se fosse stato solo il filare di ricerca di trasmissione sarebbe cambiato e basta, tutto lì. Costano perché costano quei filari, sono, mi pare, Motorola. Sono quelli... Mitsubishi forse. Me lo ricordo che finali non montava. No, i finali erano buoni. Erano. Solo i cosi erano, tutti i trimmer spaccati c'erano. Però i finali dice che erano buoni. Però cosa erano non me lo ricordo. Se erano Mitsubishi o Motorola. Comunque bastava cambiare i trimmer, non li potevi cambiare, scusa. Non si potevano sostituire. Lui ha detto di no, che sì, si potevano cambiare, però era un casino, perché gli hanno toccati tutti quelli che c'erano dentro, hanno sporcato. Perché dopo che li cambi, li devi anche tarare a uno, è un casino, è quello, esci di testa. Lui mi ha detto, dice che non ne valeva la pena. Vabbè, se ha detto così vuol dire che era così. Infatti ce l'ho buttato, sono stato lì a rompermi la testa. Poi questo me l'hanno dato due anni fa me l'hanno dato. E ho un amico che per tanti anni modulava, ce l'aveva sempre in garage. E stava per buttarcelo, quando ci siamo visti mi ha detto, ma come lo sai usare? Mi ha detto sì, e allora ti faccio un regalo. E mi è venuto, mi ha dato questo, un lineare lungo 231, nuovo, e come microfono mi ha dato uno Shure. Lo Shure è quello famoso che non sembra riuscito a farlo funzionare bene, così è. Esatto, perché non ha amplificazione quello. C'è solo il volume dell'audio e basta, però non c'è scheda. Non c'è circuito di amplificazione, ho capito. Avanti, lì. Sì, adesso già mi dovrebbe sentire Franco, sto usando il 140. Bene, va adesso. 9.10 Radio 5. E io quando ti arrivo, Fra? Tu sei 9.20 Radio 5, Super 5. Che ragazzo, va bene. Andiamo via. Hai visto. Poco fa stavo uscendo con l'apparecchio di Gio Maria, no, con quello mio. E l'hai aggiustato? Sì, l'hai aggiustato, sì. Sono dovuto andare a rimosinare i pezzi. Ma qua è quello che usciva gracchiante, quello che aveva comprato da poco, quello lì. Sì, quello che usciva gracchiante, perché si sono dimenticati di metterci l'isolatore, capito? L'isolatore con la vite, quindi è logico, nello sacci è successo che in pratica l'integrato è andato in corso. Capito? vabbè, Franco, riprenditela. Capo, io me la riprendo e vi devo lasciare perché sono a cena fuori e me ne devo andare. Sono entrato perché vi ho sentito e non ho fatto tempo e non ti sentivo, Gianni, e allora sono entrato almeno a salutarti. E ce ne ascoltiamo le prossimine. Grazie del piccolo QSO e ce ne ascoltiamo più avanti. Riprendi tu, Gianni, e ciao anche a Cavello, con Antonio che ci ascoltiamo ogni tanto. E riprendi tu, Gianni, e fai girare. Ehi, Alfa, dai, mi ha fatto piacere che sei entrato, dai. Quando vuoi non c'è problema. Un salutone di nuovo e buona carica quando la fai. Avanti, Antonio. Ciao Fra, ci sentiamo, buona carica, buon tutto, ci sentiamo alle prossime. Tu senti a Davide, stavolta ci sentiamo come ieri, no, non c'è problema, stavamo facendo la prova di microfono, microfono, potenza, eccetera, eccetera, e tutto. Ehi, va bene, ciao, buonanotte, ciao, abbraccio a te. Ehi, capa, sono qua, sto usando un MC 95, cioè MC 95, mi teme, l'M 95 da G sto usando, il microfono palmare attaccato al chimico. Vabbè, tu le provi tutte, fai bene, ma cosa c'hai, il cavetto da attaccare? Me la sono costruito io il cavetto da agganciare, quindi posso usare la Delta, posso usare l'M95, l'unico che non va bene è l'MBB4, quella l'ho regalata a Giovanna, gli ho dato anche la scatola, e ce l'ha a casa sua, l'avevo pagato 60, l'ultimo, perché ne ho comprato 5 di quei microfoni, tutti modificati, tutti me l'hanno chiesto, dice io vendi, me lo esci benissimo, eccetera, eccetera, non vai bene, te lo prendi, dava il top e usalo. L'ultimo che ci ho regalato a Giovanna, l'MBP4, la verità. Il primo che mi aveva dato, cazzo, era tutto quanto messo male, era... aveva il pezzo sollevato. Il padre della Tamazza ha detto no, non ne voglio di quel microfono, ho detto, mi ha trovato subito indietro. E guarda, ma non lo vede nessuno, lo so che non lo vede nessuno, ma siccome è mezzo all'occhio, ho detto questa cosa qua, gli ho detto. Ti scalo anche 10 euro, ho detto guarda, non mi interessa niente, dammi le MBP4, ho detto quant'è? 10 di meno da P5 che mi sta virando, da P4 vuole far culo, e così ho fatto. E io ho preso la KP1000 e l'ho pagato la marca di Susi, adesso costa un bel, e c'ha il tastino, quello che in teoria è rosso, ce l'ha nero, praticamente gli manca la faccia rossa davanti. Non so dove cavolo sia finita, però ci manca, me ne sono accorto dopo, per non stare a tornare indietro ci sono mai tornato. Tu mi pare che ne avessi uno di quelli per pezzi di ricambio, vero? Mi sembra che avevi fatto così, io c'ho, vabbè, c'ho un coso, microfoni proprio, oramai sono tutti fatti fuori, c'avevo gli M300, te lo ricordi, tutti i dati, avevo, come ti posso dire, di quei microfoni modello vecchio, eccetera, eccetera. Tutti regalati, avevo, se no pezzi di baracchino, addirittura anche tutto intero volavo, volevo fare ogni volta, mi serve questo pezzo, mi asco, pigliati l'apparecchio e staccati quello che ti serve, detto, e poi ti avanti, infatti quando poi avevo pigliato il saturnecco io, ho voluto arrangiarmi, ho voluto controllare dove diavolo era, c'era in pratica la resistenza bruciata, un condensatore e un trimmer, e dopodiché ero riuscito a sistemarlo, gli altri conti, e l'avevo dato a Piero Lago, poi Piero Lago appena sarà venduto. Mario Massari dovrebbe avere accorto l'apparecchiatura, lui dice. so cos'è. Ehi, amare Marcia c'ha tutta casa sua, c'ha in terrazzino, c'ha tutti gli apparecchi esposti. E lì, quando ne avevamo detto farsi l'antenna, poi mi ha detto, diceva, mi stavo rompendo le balle, ha detto se la piglia in culo, mi ha detto. E basta. A un certo punto, io da solo, posso fare certo voci salvo, gli ho detto, ammazzami. Quando vengo, gli ho detto, cerca due o tre persone, gli ho detto, vengo e ti do una mano e così ti cali di nuovo tutto, se non ti sparano a Natale, gli ho detto, torna. Sì, è un po'. Ciao Marco, la legge del più forte, dice. Buonasera a tutti, sono entrato solo a salutare, ero nella tua stanza al computer e sentivo bip, pop, ho detto questo è Antonello, minimo con qualcun altro. L'altro ero io. Poi c'era anche Franco, mi pare, sì, ti avevo sentito lui, stavo un po' ascoltando, e sto facendo cosa al computer. Stasera sono andato un po' a Plaza Mona, per fortuna abbiamo trovato posto auto, pirato il gelato, anche il caffè ci è uscito. Così girettino, così poi tornati a casa. E anche la giornata è fatta, dai. E io invece ci avevo ospiti, non sono potuto uscire per niente. Ci avevo ospiti a pranzo, sono andato tutti verso le 5 e quindi cosa faccio? Io, comunque ho preparato il kit, ce l'ho nel cofano, il baracchino quello senza smitter e la lanterna, come diceva qualcuno, lanterna, quando voglio, piazzo, capito? Io poi quando sono tornato a casa era presto, erano le 5:15 e al baracchino era deserto ancora, ho acceso da qua, era deserto, quindi ho fatto bene a non piazzarne, dai, era troppo presto. Signori, continuate pure, io sto facendo qualcosa al computer e ci sentiamo quando capita, ok? Da pagare, va bene, ti manca un pezzo comunque Marco, in quel kit. Un pezzo nel kit, aspetta, dunque, non so dove puoi andare a parare, l'attacco a 100 sigari, il baraccocco, il microfono amplificato uguale a quello di Antonello, quello LM95 e l'antenna quella buona, però è inutile che metto roba che poi non arrivo. Cosa mi manca, dimmi? È l'ideale. Ah vabbè, quello è marginale, quello lo metterei se avessi il cavo diretto dalla batteria, se riesco a farlo bene, se no me ne frego e così dai. Ah, ho trovato tutto il cavo sto usando il 5005, il mic originale rispetto a ieri, no? E questo è il cavo, l'ho trovato tutto sbusciato in due punti, c'è proprio la guainetta che è sottile qua, c'è rotta tipo pane carasau, che schifo, ma come si fa a costruire roba che si sbriscia tra le mani? L'ho trovato già sbucciato, adesso gli devo fare un'attività di salvataggio con agglomerante, tanto si spaccherà tutto poi. Va bene, ho parlato anche troppo, riprendi Gianni, un bacione a tutti e ci sentiamo, ciao, vai Gianni. Ciao, ciao Marco, ci sentiamo, invece io sto cercando due PL buoni, pagandoli naturalmente, perché qua a Sassari non ce n'è, devo fare lo spezzone, mi interessa avere due PL buoni, perché tutti gli altri ce li ho buoni e invece quelli che ho comprato da Fusaro non avvitano e per cui lì non ne compro più. Se trovo qualche PL buono o Alfenor oppure anche quelli macchinette marroncina, due da vendermi, li compro perché mi servono. Guarda, a meno che non ce l'abbia qualche CB da dare, allora quelli ce li ha in bacchelite, sia per cavo grosso che per cavo fino, c'ha sempre media globe. Io ve l'ho detto, se voi se volete fare un ordine, me lo dite, ci si mette d'accordo, ci si divide le spese di spedizione, ce le prendiamo un bel po' da tenere per gli anni a venire, per i secoli a venire, capito? Però poi aspetto, nessuno poi vuole aggiungersi all'ordine, allora io mi rompo le palle, alla fine mi ordino la roba sempre per conto mio. Beh, ragione. No, a me mi lasciano due, perché ne ho comprato una decina, sono tutti così, con la vita che non c'è vita. Cosa ho fatto io? Ho preso e ho tolto le, praticamente la parte della ghiera che ha vita e l'ho messa nei PL buoni. L'ho messa nei PL buoni però non arriva fino alla fine, quindi non ha vita. Cioè ho fatto un lavoro di tutto saldato, ho fatto tutto dato e dopo vado a piazzare e non ha vita. Sì, guarda, sono anche piene di sbavature, la filettatura è fatta male, in modo proprio approssimativo, oppure non standard, perché a me è capitato di ordinare da AliExpress e la vite non era di passo standard, e quindi è un pasticcio. Quindi ricordate, a Media Globe ce li ha, se vogliamo organizzare un ordine, e poi me lo fate sapere. Antonello carissimo, riprendi quel RT per me. Ti volevo dire, io non ho il numero del telefono tuo di WhatsApp, quindi me lo dovresti mandare, cazzo, no, non è sicura. Ogni tanto non sai cambio telefono e quindi è un troiaio. Tocca fare il tuo capo, poi si cancella, eccetera, eccetera. E non mi mandi il coso su WhatsApp, sul 371, non mi ricordo mai quel numero di questo cazzo di telefono. 371, no, in mente l'altro, ma questo no. Aspetta che te lo dico. Anch'io ho cambiato il telefono e ogni volta un po' mezzo pasticcio, perché certi numeri sono salvati sulla SIM che viene spostata sul nuovo, invece certi numeri sul telefono, quando si sfascia il vecchio perdi un bel di numeri anche. Bisognerebbe salvarli entrambi, sia sulla SIM che sul telefono, cosa che non faccio mai perché non me ne ricordo, oppure distrazione, così. Già, avevo visto l'annuncio, quella... Ah, hai visto quello che ho messo io? Eia. Sì, sarebbe bello, però alla fine per me è troppo, cioè, non lo userei, capito? Troppo performante, diciamo. Sì, vabbè, dai. Ma non ripiazzo, se trovi PL, perché c'è un PL difettoso, l'ho tutto per quello. Se trovi PL come si deve, lo ripiazzo, buonanotte, e lo lascio. Non vendo più. Sei pronto, Marco, a scrivere, sì. A chiudere? Sì, stavo... Dimmi, già te lo do il numero di telefono. A scrivere o a chiudere? 371-162-3461. Aspetta, dove me lo scrivo? Scrivo sulla chicchia, aspetta. Aspetta che prendo la carta, la penna. Scrivilo sulla chicchia, cazzo. Non c'è mai un pezzettino di... c'era lunga un metro, cosa avevo sentito, che ci sta il numero già messo in verticale. Poi la tecnologia, non puoi scrivere dal coso, Marco, non puoi scrivere dal telefono. Ma rientrando l'ho buttato da qualche parte e non so dove sia nemmeno. Allora, 371 162 3461 3461, confermi? Eia. Allora, te lo ripeto. 371 162 3461. Eia, telefonare per appuntamento. Ti propongo a letto. Eia, sì. Per appuntamento, sì. Grazie. Già, aspetta, che era Gianni che è più esperto, magari. Gianni, dimmi. Ma esistono ancora quelle cose che esistevano 30-40 anni fa, che mettevano sui giornali, sempre quelle a puntato, massaggiatrici offresi, quelle cose strane, quelle annunci ambigui, o non esiste più nemmeno l'occasione, eccetera, eccetera. Io prima li vedevo anche sulla nuova assemblea, li mettevo. E loro ti mandano quello che ha fatto della cosa sua. Abbiamo provato in due, ma più ammettevano e più insomma, che poi non so cosa significhi cercare. Però me lo ricordo che li mettevano questi annunci qua, li mettevano sulla Nuova Sardegna, eccetera. Ma adesso, non so se ti è capitato, anche su Facebook ti chiamano delle tipe, ti scrivono solo sola, non mi interessa di dove sei, questo e quell'altro, poi ti danno un indirizzo email, tu ci vai e loro si presentano nulla e cosa. Si sale filtrato da tutte le parti. No, Facebook io poi non ce l'ho perché non mi interessano quei social dove metti i cavoli tuoi con tutti, no. Però sono arrivate anche email, roba del genere. Una volta una mi ha contattato su Skype, questa dalla Polonia, questa Olga, ma chi è questa? Io ho troncato le chiamate perché tanto so che ti presentano la carta di... Cioè devi, se vuoi procedere devi pagare. Io invece sono più bastardo, mi diverto a farli dire le cose e poi alla fine dico, ascolta, non hai trovato questa volta il pollacciotto per spillarli su di questo e quell'altro, ma cosa stai dicendo? Ma poi è pericoloso perché certe riprendono il video, no? La tua videata, magari ti fanno uscire la pipiriola e magari vanno a fare fotomontaggi o farti casini dicendo che sei stato in siti illegali, si possono fare di tutto, quindi meglio non entrare mai in queste... né in videochiamata con queste tipe ambigue, né in queste chat room per conoscere, le chiamano dating, sì, conoscere pagando sempre, e poi ci sono mille cose dietro che possono andare storto, quindi meglio non mostrarsi mai in webcam, tantomeno nudo, vero Antonello? No, io non ne ho mai fatto di queste cose. Si chiamano su Telegram e non ci vado nemmeno lì. Guarda che quella Gigio che sei ceduto tu l'hanno fatto a una persona. E hanno ricattato, volevano 3.000 euro, volevano. Ha giocato, vai, molla tutto, detto, cancella tutto, detto. Anche l'account. E detto, a posto di metterci il nome e cognome tuo, ce ne metti un altro. Prende, cazzo, cambia cognome e ci mettono di nuovo la foto sua. Allora ho detto, sei tonto, gli ho detto. Vabbè, dai signori, vi devo lasciare, ci sentiamo quando capita, dai. Ho capito di che state parlando. E vado a chiedere un po' di aiuti. Aspetta, datemi un indizio, adesso non posso andarmene, datemi un indizio. Giuseppe, l'avevano fatto, Giuseppe Leoncino, hai capito? A me l'avevano chiesto lo stesso, no? Quello che io l'ho fatta a Pizzola. E questa tipa da questa lavoro mi sembra che era. Mi chiama, mi fa la videochiamata, io ero sveglio, Simona era lamentata nel letto, domentata, sveglia era, lavorava alla televisione, ho detto guarda, faccio vedere la casa, gli ho detto c'è una bella casa, ho detto vivo da solo, gli ho fatto vedere la camera dove c'è il baracchino, il salone, poi gli ho fatto vedere il bagno, eccetera, eccetera, e tutto si alza Simona. Mi fa, ma chi è questa troia che stai parlando? Antonè, guarda, io vi ho letto nel pensiero, vi ho letto nel pensiero e ho pensato proprio a Giuseppe Leoncino. Lui non ci poteva cascare. Ma io l'avevo fatta bella, ma sono stato vedendo una settimana, io Simona, che si è alzata dal letto e si è presentata davanti alla telefonia con la videochiamata. Mi ha detto, ma chi è questa troia che sta parlando con te? Io faccio Simona, guarda, è un'amica, no, questa è una troia, mi ha letto. Gesù. E è stato una settimana, ti giuro, una settimana di venne sono rimasto. Ti ha rovinato tutto. Allora, io vado tranquillo ridendo, cazzo, cioè facevo il serio. Poi sapevo che Simone era sveglia, mi ha detto. Si è alzato dal letto, è uscita fuori, in salone. Gli mi ha fatto venire tutto a casa, dice, questa qui, non mi farei vedere anche l'uccello, mi ha detto, oh, quello, che è fresca, gli ho detto. Sì. Vabbè, bisogna stare molto attenti perché si infiltrano, ma sa che tu, io me ne accorgo di una cosa, hanno sempre nomi francesi, se ne sono tanti, sono sempre francesi che ci chiamano, che poi non si sa se sono donne, maschi, che cavolo che ci chiama. Ebbene, vi ricordate tanti ma tanti anni fa che io entravo in queste chat di cosa erano, boh, col nome Satina 13, no? Senza mettere foto. E mi contattavano uomini adulti, già in webcam non mi vedevano a me, già con l'uccello fuori, ma questi sono matti. Perché fanno così, capito? C'è che te lo chiede me. Ci sono tre siti che sono a Sassari che ti chiedono l'amicizia e poi devi entrare in questo link e hai capito, devi scegliere, c'è uno che si chiama TikTok, si chiama, aspetta, l'altro Daiking, tutto porno, della gente che ci avvicina a te, tu immaginati come lo conosco bene, il link e ti trovi magari un'amica tua, non è davvero una viva. Ma io ce la faccio la figura. Ciao Luca, da adesso finire sono a portare giù il cane, dai, ci sentiamo, ciao a tutti, buona serata. Ciao già, ciao Luca, ehi, io ritorno al computer, ehi Antonio, già, sì, un po', è tutto un coso ambiguo, quindi meglio non, anche suo Meg, lì lo stesso, tutti con l'uccello fuori erano, per carità, e di peggio anche, lasciamo perdere, quelli tipo per me, ciao Luca, vieni avanti che dai, ti sei in compagnia Pomponio, che io sto facendo roba al PC, Luca non c'è più. Luca intanto si sparisce. Vabbè Marco, ok, ecco anch'io adesso, 5 minuti, e poi rientro, e porto Gilberto giù a fargli fare la pupù, non posso portarlo in scooter, se no ho paura, lo sai che quando salgo, quando c'è con lo scooter mi curo un gabbo allo muro. Ma tu sei motorizzato adesso? Sì, ho preso uno scooter, ho preso sui 150 euro. L'altro giorno l'ho provato, cazzo, già cammina poco, già cazzo. So che la salita già la fa. Il problema è scendere perché c'è la centralina che ha problemi, quindi devo dirarmela, capito? Ma quindi il mezzo, quel mezzo per alternativo non lo prendi più, no? No, c'è lo scooter con la sedia, hai capito? Quello per anziani. C'ha come si chiama, le luci davanti, le luci di dietro, a batterie. Mi hanno regalato le batterie, tanto gli ha costato in bocco io. Costano più di un chevudo. Ah ecco, no, credevo che avessi detto uno scooter normale, vabbè, quello di quello che è. Vabbè Antone, dai, cercheremo, prima o poi ci vedremo, che abbiamo un periodo un po' incasinato che sono successe un po' di cose ambigue ai confini della realtà e quindi dobbiamo stare per uffici, dai, per un po'. Dai, ci sentiamo, ciao alle ascoltoni anche, ciao a tutti. Sì, ciao Marco, ci sentiamo, ciao.